Capitolo 146. I figli di Eracle. Alcmena, la madre di Eracle, era andata a Tirinto portando con sé alcuni dei suoi figli. Altri si trovavano ancora a Tebe e a Trachine. Euristeo allora decise di cacciarli tutti dalla Grecia prima che potessero giungere all'età virile e deporlo dal trono. Mandò dunque un messaggio a Ceice chiedendogli l'estradizione non soltanto degli Eraclidi, ma anche di Iolao, dell'intera casa di Licinio e degli alleati arcadi di Eracle. Troppo deboli per opporsi a Euristeo, essi lasciarono in massa Trachine, mentre Ceice si diceva desolato di non poterli aiutare, e si recarono nella maggior parte delle grandi città greche come supplici chiedendo ospitalità. Soltanto gli ateniesi guidati da Teseo osarono sfidare Euristeo. Il loro senso della giustizia prevalse quando videro gli Eraclidi seduti dinanzi all'altare della misericordia. Teseo installò gli Eraclidi e i loro compagni a Tricorito, una città della tetrapoli attica, e si rifiutò di consegnarli a Euristeo. Questa fu la causa della prima guerra tra Atene e il Peloponneso. Infatti, quando tutti gli Eraclidi giunsero all'età virile, Euristeo radunò un esercito e marciò contro Atene. Iolao, Teseo e Illo ricevettero l'incarico di comandare le forze riunite degli Ateniesi e degli Eraclidi, ma alcuni sostengono che a Teseo era ormai succeduto il figlio Demofoonte. Poiché un oracolo aveva detto che gli Ateniesi sarebbero stati sconfitti a meno che uno dei figli di Eracle non si fosse sacrificato per il bene comune, Macaria, l'unica figlia di Eracle, si uccise a Maratona e diede così il nome alla fonte Macaria. Gli Ateniesi, per i quali la protezione accordata agli Eraclidi è ancora oggi causa di civico orgoglio, sconfissero Euristeo in una furibonda battaglia e uccisero i suoi figli Alessandro, Ifimedonte, Euribio, Mentore e Perimede, oltre a molti dei suoi alleati. Euristeo fuggì sul suo cocchio, inseguito da Illo, che lo raggiunse presso le rocce Scironie, e gli mozzò il capo, dal quale poi Alcmena strappò gli occhi con un ago da telaio. La sua tomba ancora si vede lì, nei pressi. Ma altri dicono che Euristeo fu catturato da Iolao presso le rocce Scironie e condotto da Alcmena, che ne ordinò l'esecuzione. Gli Ateniesi intercedettero per lui, seppure invano, e prima che la sentenza fosse eseguita, Euristeo pianse lacrime di gratitudine. Dichiarò che, anche morto, si sarebbe rivelato loro leale amico e nemico giurato degli Eraclidi. «Teseo», gridò, «non occorre che tu versi libagioni o sangue sulla mia tomba. Anche senza tali offerte io mi assumo il compito di scacciare tutti i nemici dalla terra d'Attica». Poi fu ucciso e sepolto dinanzi al santuario di Atena a Pellene, a metà strada tra Atene e Maratona. Una versione assai diversa dice che gli Ateniesi si schierarono con Euristeo durante la battaglia combattuta contro gli Eraclidi a Maratona e che Iolao, decapitato Euristeo nei pressi della fonte Macaria, ai margini della strada carrozzabile, ne seppellì la testa a Tricorito e mandò il tronco a Gargetto per i solenni funerali. Frattanto Illo e gli Eraclidi, che si erano stabiliti presso la porta di Elettra a Tebe, invasero il Peloponneso conquistando in un solo colpo tutte le sue città. Ma quando l'anno seguente scoppiò una pestilenza, un oracolo disse: «Gli Eraclidi sono tornati prima del tempo debito», e Illo allora si ritirò a Maratona. Obbedendo alle ultime volontà di suo padre, egli aveva sposato Iole ed era stato adottato dal Doro Egimio. Si recò allora dall'oracolo delfico per sapere quando sarebbe venuto il tempo debito e gli fu consigliato di attendere il terzo raccolto. Immaginando che l'oracolo intendesse parlare di 3 anni, li lasciò passare e poi si mise di nuovo in marcia con il proprio esercito. Sull'istmo si trovò di fronte Atreo, che era frattanto salito sul trono di Micene e guidava l'esercito acheo. Per evitare una inutile strage, Illo sfidò a duello un avversario suo pari in grado. «Se io vinco», disse, «mio sarà il suo trono e il suo regno. Se perdo, noi figli di Eracle non riprenderemo questa strada per altri 50 anni». Echemo, re di Tegea, accettò la sfida e il duello ebbe luogo al confine tra Corinto e Megara. Illo cadde e fu sepolto nella città di Megara. Dopo avergli reso funebri onoranze, gli Eraclidi si ritirarono di nuovo a Tricorito e di lì nella Doride, dove reclamarono da Egimio quella parte del regno che il padre loro gli aveva affidata. soltanto Licinio e i suoi figli e il figlio di Eracle Tlepolemo rimasero nel Peloponneso. Apollo Delfico, che col suo consiglio in apparenza ben poco saggio aveva suscitato molti rancori, chiarì che col terzo raccolto egli intendeva la terza generazione. Alcmena ritornò a Tebe e, quando vi morì a tarda età, Zeus incaricò Ermete di impadronirsi della bara che gli Eraclidi stavano trasportando alla tomba. Il dio obbedì, sostituendo abilmente una pietra al corpo, che trasportò poi alle isole dei Beati. Colà, rinata e ringiovanita, Alcmena divenne la moglie di Radamanto. Frattanto, notando che la bara era troppo pesante per le loro spalle, gli Eraclidi l'aprirono e scoprirono l'inganno di Ermete. Posarono allora la pietra in un bosco sacro presso Tebe, dove Alcmena è ancora oggi onorata come dea. Ma altri dicono che essa sposò Radamanto a Ecalea prima della sua morte, altri ancora che essa morì a Megara, dove si vede la sua tomba, a una giornata di cammino tra Argo e Tebe, e aggiungono che quando sorse una discussione tra gli Eraclidi, poiché alcuni volevano riportare il corpo di Alcmena ad Argo e altri proseguire il viaggio, l'oracolo delfico gli consigliò di seppellirla a Megara. Un'altra cosiddetta tomba di Alcmena si mostra ad Aliarto. I Tebani eressero un santuario eroico in onore di Iolao, presso il tempio di Anfitrione, dove gli amanti si giurano fedeltà in nome di Eracle. Tuttavia è opinione comune che Iolao morì in Sardegna. Ad Argo, Tlepolemo uccise involontariamente il suo amato prozio Licinio. Egli stava bastonando uno schiavo con una mazza di legno d'olivo allorché Licinio, ormai vecchio e quasi cieco, incespicò cadendo fra i due e si buscò una bastonata sul cranio. Minacciato di morte dagli altri Eraclidi, Tlepolemo allestì una flotta, radunò un buon numero di compagni e, per consiglio di Apollo, fece vela per Rodi, dove si stabilì dopo molte e dure peregrinazioni. In quei tempi Rodi era abitata da coloni greci governati da Triope, figlio di Forbante, e col suo consenso Tlepolemo divise l'isola in tre parti e si dice vi fondasse le città di Lindo, Ialiso e Camiro. La sua gente si arricchì col favore di Zeus. In seguito Tlepolemo salpò per Troia con una flotta di 9 navi rodie. Eracle ebbe un altro figlio chiamato Illo dalla ninfa delle acque Melite, figlia del dio del fiume Egeo nella terra dei Feaci. Egli si era recato laggiù dopo l'assassinio dei suoi figlioli, con la speranza di essere purificato da re Nausitoo e da Macride, la nutrice di Dioniso. Codesto Illo emigrò sulle rive del mare Cranio con un certo numero di coloni feaci e diede il suo nome agli Illeani. L'ultimo degli Eraclidi si dice fosse l'atleta Tasio Teagene. Sua madre fu visitata una notte nel tempio di Eracle da qualcuno che essa suppose fosse un sacerdote, ma che era in verità il dio stesso. Gli Eraclidi in seguito riconquistarono il Peloponneso alla quarta generazione, sotto il comando di Temeno, di Cresfonte e dei gemelli Prode ed Euristene, dopo aver ucciso il gran re Tisamene di Micene, un figlio di Oreste. Essi avrebbero ottenuto il successo anche prima se uno dei loro principi non avesse ucciso Carno, il poeta acarnese che gli veniva incontro cantando versi. Fu scambiato infatti per un mago inviato da Tisamene. In punizione per questo sacrilegio, la flotta degli Eraclidi fu affondata e il loro esercito, affamato dalla carestia, si sbandò. L'oracolo delfico gli consigliò allora di bandire l'assassino per 10 anni e di assumere Triope come guida. Gli Eraclidi già si preparavano a convocare Triope, figlio di Forbante, allorché Temeno notò un capitano etolico chiamato Ossilo, che aveva appena espiato non si sa quale omicidio con un anno in esilio in Elide e che cavalcava un cavallo guercio. Ora Triope significa dai tre occhi e Temeno subito assunse Ossilo come guida. Sbarcato sulle coste dell'Elide con i suoi parenti Eraclidi, ben presto conquistò l'intero Peloponneso e lo suddivise in lotti. Il lotto contrassegnato da un rospo, che significava Argo, andò a Temeno. Il lotto contrassegnato da un serpente, che significava Sparta, andò ai due gemelli Procle ed Euristene. Il lotto contrassegnato da una volpe, che significava Messene, andò a Cresfonte. La disastrosa invasione della Grecia centrale da parte di montanari patriarcali che calarono nel Peloponneso miceneo secondo Pausania e secondo Tucidide verso il 1100 a.C., fu chiamata invasione dorica perché i capi dei suddetti montanari venivano da uno staterello detto Doride. Tre tribù componevano la Lega Dorica: gli Illidi, che onoravano Eracle, i Dimani, invasori, che onoravano Apollo, e i Panfili, uomini di tutte le tribù, che onoravano Demetra. Invasa la Tessaglia meridionale, i Dori sembra che si alleassero con gli Ateniesi prima di rischiare un attacco al Peloponneso. Il primo tentativo fallì, benché Micene fosse bruciata all'incirca a quell'epoca, 1100 a.C. Ma un secolo dopo i Dori conquistarono le regioni orientali e meridionali del Peloponneso, avendo ormai distrutto gli antichi centri culturali dell'Argolide. Questa invasione, che provocò emigrazioni in massa dall'Argolide a Rodi, dall'Attica alle coste ioniche dell'Asia Minore e a quanto pare anche da Tebe alla Sardegna, segnò l'inizio del Medioevo in Grecia. La sepoltura strategica della testa di un eroe è assai frequente nei miti. Così, secondo il Mabinogion, la testa di Bran fu sepolta sulla collina della torre per proteggere Londra da invasori che giungessero dal Tamigi. E secondo Sant'Ambrogio, la testa di Adamo fu sepolta sul Golgota per proteggere Gerusalemme a nord. Inoltre Euripide fa dire a Ettore che anche le ombre degli stranieri potevano servire come spiriti tutelari di Troia. Sia Tricorito sia Gargetto sorgono all'imboccatura di strette gole, passaggi obbligati per chi voglia entrare nell'Attica. L'episodio di Iolo che insegue Euristeo sino alle rocce Scironie pare sia stato tratto dalla medesima raffigurazione che suggerì il mito di Ippolito. La terra dei Feaci era Corcira o Drepane, presso Corfù, e al largo delle sue coste si trova la sacra isoletta di Macride. Il mare Cronio era il golfo di Finlandia, dove pare si recasse una spedizione corciria per cercare l'ambra. Corcira è pure associata con un'altra spedizione per l'acquisto di ambra compiuta dagli Argonauti nell'Alto Adriatico. Triope, il colonizzatore greco di Rodi, è una mascolinizzazione della triplice dea Danae o Danchina, e dalle sue tre persone presero il nome Lindo, Ialiso e Camiro. Secondo altre versioni, le tre città furono fondate dalle Telchine o da Danao. Poiché Alcmena era semplicemente un appellativo di Era, non vi è nulla di strano nel fatto che le fosse dedicato un tempio. Polignoto, nel suo famoso affresco di Delfi, dipinse Menelao con un serpente sulla fascia dello scudo. Si trattava presumibilmente del serpente d'acqua di Sparta. Una volpe aiutò l'eroe messenico Aristomene a uscire dal pozzo dove l'avevano gettato gli Spartani, e la dea sotto forma di volpe era ben nota in Grecia. Il rospo pare fosse l'emblema degli argivi, non soltanto perché si pensava fosse pericoloso toccarlo e lasciasse impietrito dallo stupore chi lo vedeva, ma anche perché Argo fu dapprima chiamata foronico. Nel sillabario che precedette l'alfabeto ad Argo, le radicali PHRN potevano essere espresse dalla figura di un rospo frine.